9 ottobre del 2019, ore 21.05. Questa è Radio Onda Rossa 87.9. È l'ora di prove tecniche di trasmissione, consueto spazio del mercoledì sera, in onda da adesso sino alle 22.30 circa. Credo che questa sera rientri qui in radio con la sua trasmissione 25 o'clock, in caso contrario chiaramente avvertiremo. www.ondarossa.info è il nostro sito internet, anche per sentirci attraverso lo streaming. Il numero di telefono è 0649 1750. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Invece la possibilità di risentire questa trasmissione è attuabile andando domani sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, oppure sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione / Disorder, anche questo domani mattina. Salutiamo Silvia qui a Roma, Maya dalla Sardegna, il buon Massimo Oders Mascheroni da Milano, e del quale sentiremo una delle sue opere verso la fine della trasmissione, Lucia Cagliazza in arte Lupsi, che sta lavorando al suo ultimo lavoro che spero sentiremo presto su queste frequenze. Salutiamo Petrolio e quindi Enrico Cerrato. Salutiamo Jean-Claude Berton, un grosso abbraccio a lui in questa difficile giornata che ha vissuto, lo abbracciamo caldamente. E quindi noi andiamo a concludere il nostro viaggio che abbiamo intrapreso da quando abbiamo reiniziato questo ciclo 2019-2020 di prove tecniche di trasmissione con questa compilation dal nome Drone Islands Land Racing, una compilation che fa il punto della situazione, della scena, così si vuol dire, drone ambient, almeno per la maggior parte in questo album ci sono tracce drone ambient, una compilation ideata naturalmente da Raffaele Pezzella, che salutiamo, una compilation che esce per la 8 Tower Records, etichetta parallela alla Nesplay Sounds. Bene, dunque, intanto Lucia ci dice che tra un mese uscirà il suo album, bene. E naturalmente Raffaele Pezzella, guarda un po', gli fa da mastering, ormai Raffaele Pezzella è come il prezzemolo, sta dappertutto. Salutiamo Pioggia d'Ambra con Manu Fais e di nuovo Jean-Claude Berthaud, di nuovo lo abbracciamo dalle montagne della Val d'Aosta. Infine anche Federica ci sta ascoltando dalle Marche, da Iesi. È entrato un po' violentemente, ma tant'è, lui è Nihil Impulse, Malthusian Practice. Rimaniamo sulla medesima compilation, questa Drone Islands. Un momento emozionale un po' diverso rispetto ai fulgori rumorosi della traccia precedente di Nihil Impulse, progetto italiano di cui so veramente poco, e magari Raffaele mi può entrare come aiuto. Lui è Eichler, questo è Love Segment 1, la traccia che va a chiudere l'intero lavoro. Dunque, due progetti da questo Drone Islands, l'italiano Francesco Di Stasio in arte Nihil Impulse e Hechler, Heikki Lindgren, Esa Esa Juhani Ruoho, di probabile origine finnica, è la cosa che sta andando orora sotto la mia voce. Ringraziamo Raffaele anche delle puntuali precisazioni e informazioni che mi sa dare in diretta, diciamo, mentre io parlo qui e mando musiche. Ormai sono anni che c'è questa bella collaborazione a distanza. Quindi molte settimane in compagnia di questa compilation che abbiamo sentito nella sua interezza, e quindi della Nespresso Sounds o delle Tower Records manderemo qualcosa la prossima settimana. Un grosso saluto anche a Stefano Di Serio Lake Wake, anche lui storico musicista di area Dark Ambient qui di Roma. A Roma arriviamo e lo facciamo con anche qui con Crucifigo, un album che abbiamo ascoltato per 3-4 settimane, e quindi stasera anche lui è giunto al termine della nostra analisi. Un ottimo lavoro con umori ritualistico sacrali, psichedelia in alcuni tratti, anche potente in altri, più introspettivo, con Marcello Fraioli, Alessandro Papa, Gloria Bazzocchi e Simon Ballestrazzi, Marco De Plano, eccetera eccetera. Di questo lavoro questa sera ci ascoltiamo il brano che lo va a chiudere, che non a caso si chiama Exit. Being a young man, a little I came to the world, and he was obviously excited and caught me, took me by the label of my coat and led me to the window. Now you see. Now look at it. Look up at the sun. And see how it moves. He must move your head too like this. And then you will see the follows of the sun. And that's the origin of the wind. And you see how the sun moves as you move your head from one side to the other. Now, of course, I didn't understand it at all. I thought, oh, there you are. He's just crazy. But that case remained in my mind. And 4 years later, I came across a paper written by the German historian, Dietrich, who had dealt with the so-called Mittelalter literature, a part of the great Parisian social papyrus. And there he produced the part of the so-called Mittelalter literature. Namely, it is said there, after the second prayer, thou wilt see how the disk of the sun unfolds. And you will see hanging down from it the tube, the origin of the wind. And when you move thy face to the regions of the east, it will be there. And if you move your face to the region of the west, it will follow you. And into that, I know, and you, now, this is it. This is the vision of my patient. Did you find the ecstasy? Quindi una retrospettiva riguardante New Procession Order, realtà romana in attività da qualche annetto, una retrospettiva che riprenderemo a breve. un vero e proprio viaggio nei recessi della mente questa ultima traccia Exit, che non a caso contiene anche un le declamazioni, un campionamento di Carl Gustav Jung, quindi stiamo parlando di psichiatria, di psicoanalisi. Qualcosa di più aspro invece appartiene ai prossimi Unite 731 U731 di Anthony Kuczka e Gordon Lazarus. Un solo lavoro al loro attivo, By All Means, che andremo appunto ad ascoltare, che usciva per la Black Plug, un lavoro del 2014, a metà tra Death Ambient e altre sonorità invece più d'attacco e più pressanti. La prima traccia che ci ascolteremo si chiama Asphyxiant Collapse e poi la traccia che invece va a chiudere questo By All Means dal nome Sugan Last Rites. Came back in greater than 10,000. spettrale e potente nello stesso tempo, con questo finale tutt'altro che rassicurante, un finale che apparteneva a questo progetto dal nome Unit 731, un unico lavoro, ed è un peccato, dal nome By All Means del 2015. Si va a salutare Silvia in quel di Ostia, un grosso saluto a lei. Lasciamo questi U731 e andiamo a sentire un'altra traccia di un lavoro anch'esso passato sovente nelle ultime settimane qui a Prove Tecniche di trasmissione. Lui è Gutenberg e questa sera finiamo con A Necessary Bronze, con proprio l'ultima traccia che, la nona traccia che lo va a concludere, uno dei brani più sperimentali di questo lavoro che porta il nome di Dose Pace. uno degli episodi più incalzanti, più avvolgenti di questo Unnecessary Bronze di Gutenberg, artista giapponese. Era la traccia finale, l'atto finale di questo album, uscito nel giugno di quest'anno, si chiamava Dose Pace. Salutiamo anche Nicola Locci, alle prese con un'influenza. E quindi gli diamo appuntamento alla prossima settimana, sperando in una sua pronta guarigione. Noi intanto andiamo avanti, 21:56. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e naturalmente sul sito www.ondarossa.info per lo streaming. Andiamo nell'est europeo, andiamo in Serbia, andiamo dagli Autopsia di Oscularum Infame, secondo lavoro che uscì su cassetta nel 1987 attraverso la Produxia Slovenia. La parte finale dal nome First Fuck e Anxiety.